Allora, io invece avrei da farle due domande, una sulla questione quantitativa e analizzata dal punto di vista del, diciamo, non solo legge 30, ma quel processo che ha spiegato che è partito dalla prima metà degli anni 80 di maggiore progressiva maggiore precarietà e del lavoro e sua suddivisione in tante categorie. Quindi, da questo punto di vista faccio una domanda più a sfondo politico, siccome lei ha toccato la questione del, come dire, il passaggio al lavoro precario come l'abbiamo oggi, non lo dobbiamo alla legge 30, ma lo dobbiamo a quel periodo che, guarda caso, coincide con la legislatura, governo Prodi, comunque centrosinistra. Domando. Quel periodo è anche contemporaneo alla necessità dei paesi europei, quindi anche l'Italia, di raggiungere e stare dentro i parametri di Maastricht. Non può avere più peso questa questione che le idee di Prodi e compagnia bella, che non voglio affatto difendere e ci tengo a specificare. Punto di vista invece qualitativo, penso che però abbia già risposto la domanda era incentrata sulla questione della standardizzazione dei saperi, cioè noi arriviamo con un programma di esami già ben definiti e ci indirizziamo verso un certo tipo di conoscenza, questa comunque siccome diventa, non voglio riusare il termine di massa, comunque più persone arrivano a finire la triennale perché ci sono più iscritti all'università, però il capitale umano cresce, domanda. Faccio bene a dedurre che questa crescita del capitale umano non perde di importanza in quanto è pilotata? Grazie. Ci sono altre domande? Volevo chiederle appunto qualche consiglio su quali sono gli strumenti che noi studenti comunque abbiamo per contrastare questo processo di standardizzazione della conoscenza. E appunto questa nostra esperienza Unifree nasce appunto con lo scopo di liberare appunto la conoscenza, di far circolare liberamente la conoscenza, però quali altri strumenti abbiamo di fronte a un sistema che è improntato a un controllo della conoscenza? Grazie. Allora, io purtroppo sarei felice se riuscissi a prendere il treno delle 19:14. No, perché è un problema di carattere di gestione fra tempi di produzione e tempi di riproduzione. Come si dice, no? Ma alle 5 dovrebbe essere, mi auguro, dovrebbe essere finito. No, ma questo non vuole essere repressivo nei confronti delle domande. Allora, dirò velocemente. Allora, io sono sempre stato fortissimamente critico e mi sono preso, manca poco, una volta mi preso anche delle bastonate dai sindacalisti della CGIL, quella storia del governo, di tutte le leggi del percorso di flessibilizzazione del mercato del lavoro. Perché l'idea su cui si discuteva nei primi anni 90 era, da un lato, è necessario rendere flessibile il mercato del lavoro in maniera da aumentare i profitti delle imprese, in maniera di calmierare i prezzi, che i profitti derivassero da riduzione dei costi e non da caricamento sul livello dei prezzi, perché uno dei target dei quattro parametri massimi era il target inflazionistico. Però questo con Maastricht c'entra relativamente poco, piuttosto diciamo che con la questione di Maastricht c'entra tutto il processo di smantellamento del welfare state, del discorso rivolto al rapporto deficit-PIL, eccetera. Quello che invece veniva portato avanti, io credo, nel 90% dei casi in buona fede, c'era un 10% di malafede, che di fronte ai discorsi che vengono fatti proprio in questi giorni di adeguare il sistema produttivo ai cambiamenti dalla struttura fordista a una struttura più basata sulla conoscenza come struttura di produzione, c'era quella di fare delle iniezioni di flessibilità con l'idea che che la flessibilità potesse essere in qualche modo monitorata e controllata, diciamo un liberismo temperato, una cosa del genere. Il problema è, di per sé, tenete presente che questa spinta, io faccio parte di una generazione, quella del 77, che noi del rifiuto del lavoro avevamo fatto una bandiera ferrea, e della flessibilità come obiettivo, cioè l'idea, nessuno andrà mai a lavorare sotto padrone, perché l'idea di andare a lavorare in fabbrica, per chi ci ha lavorato, è tremenda. Ci hanno lavorato i nostri padri, quindi c'era chiaro che la nuova generazione col cazzo vuole andare a lavorare in fabbrica. La nuova generazione vuole essere flessibile, perché la flessibilità io ritengo che sia un valore. Il problema è quando non ci sono gli strumenti per rendere la flessibilità un valore, allora si trasforma in precarietà. Se la flessibilità è usata a senso unico ed è flessibilità del padrone, è chiaro che poi tu sei in una condizione, però il fatto di rifiutare lavori, di non andare a lavorare in imprese private, di stare 10 anni in precariato all'università, che è stata la mia scelta, io ero ben contento di essere precario, guadagnare 1 milione ogni 3 mesi con pagamenti a babbo morto e quindi con tutti i problemi che questo crea, però con l'idea di essere tu attivo sulla tua vita. Poi, passata l'infatuazione, ti sei reso conto che non è vero e che forse a questa epoca, forse se accettavi di lavorare a CES Manhattan a 80 milioni l'anno, forse sarebbe stato meglio, invece che guadagnare 1 milione in 3 mesi. Però, questi sono quello che succede nella vita. Però c'è una forte spinta soggettiva, e c'è ancora, credo, di ricerca di libertà. E libertà anche significa flessibilità, di mobilità, di nomadismo, eccetera. Il punto, e quindi l'idea, quindi su questo, attenzione, c'è stata da una parte la tendenza del centro-sinistra di dire facciamo iniezioni di flessibilità legate, tipo le famose frasi di D'Alema, scordatevi il posto fisso del 95-96, no? No? Prima del pacchetto 3, no? Era quella dicendo perché noi adesso iniziamo le azioni di flessibilità che vanno incontro anche a una certa richiesta e che però teniamo sotto controllo. Questo, dico, il 10%, mettiamo che questo fosse in buona fede. Uno potrebbe avere dubbi dicendo sì, ma se fate queste cose qui è come aprite la gabbia, il leone esce e quando è uscito tu come cazzo fate a riportarlo nella gabbia se non avete come minimo una carabina che gli spara del sonnifero. Perché se non avete la andate lì solo mani nude per cercare di prendere il leone e portarlo in gabbia, è chiaro che questo non avverrà mai. Ed è quello che è successo, perché poi la flessibilità è scappata di mano. È scappata completamente di mano da qualsiasi forma di regolazione. Non so, mentre invece se fosse stata adeguata da politiche di sostegno al reddito, ad esempio, vi lascio il discorso precarietà, reddito, eccetera, che invece di garantire continuità di lavoro si garantiva continuità di sostenibilità reddituale, allora a questo punto avrebbe creato interventi mirati a ridurre la ricattabilità della precarietà del lavoro, permetteva a molte persone di dire no, questo lavoro di merda non lo faccio, oppure consentiva, diciamo, spazi di libertà, non lo so. E quindi, per rispondere a tua, c'è questa ambivalenza, nei governi di centro-sinistra, che è una caratteristica dei governi di centro-sinistra, da questo punto di vista. Anche sulla storia sulla scuola c'è questa ambivalenza. Io non riesco a capire fin dove ci fosse un piano. Fatto sta che tutte le riforme che ha fatto il centro-sinistra sono state usate, quasi tutte, pensate a quella dei CPT, la Turco-Napolitano, gli sono diventate strumento per creare dei disastri umani dal punto di vista sociale e civile di minimo progresso. Questo però non è un invito a non guadagnare. Dopo uno viene accusato di essere berlusconiano. Però è chiaro che bisogna favorire il dibattito all'interno di questo. Supponiamo che l'errore sia stato fatto in buona fede. Beh, se me lo fate una seconda volta, allora la buona fede non esiste più. No, poi per il resto il secondo punto sicuramente la laurea professionalizzante aumenterà il numero dei laureati e questa è una necessità, Cioè, come sapete, l'Italia è il paese che tra i paesi europei quelli che ha il numero di laureati più basso rispetto alla popolazione, sotto il 10%, rispetto al 25% della Francia, al 18-20% della Germania, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro, e c'è una necessità anche della produzione, perché uno dei problemi che ha l'industria italiana, che è essenzialmente basato su piccole imprese, è che chi gestisce queste piccole imprese a ruolo di responsabilità è un perfetto ignorante il più delle volte. Quindi, se il capitale umano, che è un'espressione, un ossimoro perfetto direi, capitale umano, no? Aumenta, questa è una necessità della produzione. Il problema è che ovviamente la lotta e il conflitto, per arrivare alla domanda sua, è che va benissimo la crescita delle conoscenze, delle competenze, eccetera, ma che questa crescita delle conoscenze sia auto-organizzato e non etero-diretto pilotato. Come si sta strutturando adesso l'università? Io che ci sto dentro e sento cosa vengono letti nei consigli di facoltà, nei luoghi di decisione, eccetera, è assolutamente pilotato. Gli studenti sono considerati neanche dei clienti, che se fossero considerati dei clienti sarebbero trattati benissimo. Sono considerati come un po' un parco buoi, per cui bisogna ridurre gli esami. Ogni anno si dice che i nuovi studenti hanno sempre una preparazione inferiore a quella dell'anno precedente, sempre peggio, non studiano, eccetera, eccetera, eccessivamente. No? Rispetto a questo, per far sì che lo sviluppo di conoscenze non sia pilotato, beh, credo che vi occorre fare un'incursione interna che liberi tempo e utilizzi questo tempo per fare forme di autoformazione, banalmente, utilizzando anche il meccanismo dei crediti, cioè far sì di liberare spazi all'interno dell'università che possono essere gestiti non soltanto per fare riunioni, assemblee o progetti o mostre o cose del genere, che quello intanto va bene e non dà fastidio più di tanto, no? Ma piuttosto liberare spazi e tempi perché all'interno di questi spazi vengono dati degli embrioni di processi conoscitivi non pilotati, quello darebbe molto più fastidio sicuramente. Qua sta le strategie, tattiche, capacità, forze, disponibilità, eccetera. Però in molte università italiane io sono partecipato a due processi di autoformazione, secondo me fatti molto bene. Uno era quello della Sapienza di Roma l'anno scorso e l'altro era della Facoltà di Sociologia a Trento, che gli studenti hanno utilizzato i fondi, dei fondi studenteschi o fondi per l'attività studentesca di Ateneo per rimborsare i viaggi a docenti che venivano da tutta Italia, quindi non della facoltà, perché è una cosa abbastanza assurda, cioè sarebbe interessante fare una circolazione dei docenti, perché sono come i giornalisti, i docenti, cioè i docenti predicano la flessibilità studentesca ma loro sono inamovibili, come i giornalisti che per sempre hanno detto la precarietà non è un problema, poi adesso quando gli toccano il culo sono lì che fanno sciopero sulla precarietà perché sono loro i primi a essere interessati, i docenti un po' faranno così. È la in maniera che sia pagando il viaggio ovviamente, magari dando un piccolo rimborso, no? 50 euro per lezione, utilizzando i fondi e ottenendo che questi corsi venissero certificati con dei crediti da inserire nei curricula degli studenti. Qui a Pavia io posso dire che sto contrattando da un paio di mesi per una serie di seminari da fare alla Facoltà di Economia che abbiano dei crediti su queste tematiche, sulle trasformazioni produttive del lavoro. Però è molto difficile questo, occorre che ci sia una pressione su questo. Però credo che questo sia sicuramente un sentiero percorribile e che può creare processi di germinazione positiva anche, e di circolazione. Per esempio, i corsi, visto che prima nelle presentazioni si è parlato di progetti di seminari su tematiche, eccetera, che sono interfacoltà, migranti piuttosto che aspetti artistici, audiovisivi, piuttosto che politiche alimentari, che penso che siano legate a, possono essere all'interno di medicina o scienze biologiche o scienze dell'alimentazione, non so neanche se scienze alimentazione c'è qui a Pavia o meno, no? eccetera. Beh, sarebbe utile vedere se è possibile inserire questi all'interno di, ovviamente con delle prerogative di non patteggiamenti, che sono la totale autonomia dei contenuti.